È uscito l'8 aprile l'album d'esordio della band bolognese Corobu per la Locomotive Records, e per parlare di questa nuova uscita, di questo nuovo progetto, siamo in collegamento telefonico con uno dei membri dei Corobu, Alessandro. Ciao Alessandro, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao Adele, ciao a tutti. Come dicevo prima, l'8 aprile è uscito il vostro primo album, il vostro album d'esordio, Fading Building. Prima di passare, come dire, un po' ad approfondire questo vostro nuovo progetto, vorrei chiederti innanzitutto la scelta del vostro nome, Corobu, che se non sbaglio è un termine giapponese. Ci puoi spiegare che cosa significa? Allora sì, è un termine giapponese, principalmente significa abiurare, perdere la fede, ed era la cosa che i buddisti, i monaci buddisti giapponesi imponevano ai gesuiti che tentavano di catechizzare il popolo giapponese. Venivano quindi imprigionati e costretti ad abiurare. Questo atto di abiura, di perdita della rinuncia, non tanto della perdita, della rinuncia sotto costrizione della fede, veniva appunto nominato come l'atto di fare Corobu. E poi in ambito un pochino più, diciamo, filosofico, metafisico, significa anche precipitare, svanire, cadere, e poi ce ne ha tanti altri, perché appunto essendo una lingua discretamente complessa ne abbiamo scoperto uno recentissimamente, che era prostituirsi in incognito, e quindi insomma ne ha molti. Quello che più ci piace è l'aspetto più, diciamo, metafisico, che è appunto questo fallire, cadere, precipitare. Ci è piaciuto tanto. L'abbiamo poi pescato dal film di Scorsese che si chiama Silence, che racconta proprio questa vicenda, insomma, di questi gesuiti che vanno a cercare un ex gesuita che poi, facendo Corobu, è diventato appunto un buddista. Fading Building, il vostro album che è uscito l'8 aprile, potremmo descriverlo quasi come una sorta di critica sociale. Qual è il messaggio che contiene e che avete voluto inglobare all'interno degli 8 brani che compongono l'album? Il messaggio non è propriamente univoco, è molto sfaccettato e va, come dire, a prendersi degli aspetti delle nostre vite personali in primo luogo. E eravamo un po' tutti reduci da, non dico fallimenti, comunque delle storie musicali che abbiamo avuto in passato, che hanno portato alla chiusura di progetti di band, appunto i My Own Parasite, dove militavamo io e Christian, e i Basaldrin, dove appunto cantava Giallo, che sono gli altri due membri appunto dei Corobu. Arrivati a questo punto ci siamo poi incontrati in questa dimensione, insomma, di tentativo di ricostruire qualcosa, però appunto su delle cenere di qualcosa che è svanito, ed erano tanti anni che eravamo un po' fermi. E da lì, insomma, è nato l'idea di dare questo nome al disco. I brani all'interno si intersecano un pochino all'interno di questo concetto di qualcosa che svanisce e successivamente ricostruito, per poi risvanire ancora e ricostruire. Quindi non è una cosa statica, ma una cosa in continua evoluzione, un aspetto in continua evoluzione, ed era qualcosa che è stato molto legato alla fase compositiva e al momento della costruzione dei brani, che sono stati costruiti per poi di nuovo dissolti, rinati in varie forme. È stato un processo molto lungo, a tratti faticoso, sicuramente avvincente, che poi ci ha portato a concretizzarlo su questo titolo. Alessandro, ti faccio l'ultima domanda, che riguarda un po' il videoclip che ha anticipato l'uscita dell'album, ovvero Roots, che vede la collaborazione con Erika Il Cane. Ti chiedo come nasce questa collaborazione con questo artista. Allora, la collaborazione nasce principalmente da un'amicizia mia e di Erika Il Cane, che risale ai tempi dell'università, quindi stiamo parlando di almeno 15 anni fa. Ci siamo conosciuti in ambito DAMS e Accademia delle Belle Arti, e ci siamo piaciuti subito, siamo diventati amici fraterni, e io Ho musicato spessissimo i suoi lavori, i suoi video in stop motion, oppure quando crea dei graffiti, appunto, o dei muri che si autoriprende. Abbiamo fatto anche quello e lui ha dato vita a dei video che abbiamo fatto con My Own Parasite e con altri progetti in passato. Quindi ecco, è una collaborazione che nasce sull'amicizia, sulla stima reciproca e sull'amore reciproco di quello che facciamo. E in questo caso sia la copertina che ha fatto, poi ha curato tutto l'artwork e poi anche il videoclip, insomma mi è venuto naturale chiederglielo e a lui è venuto naturale farlo e ha interpretato liberamente, insomma, quello che erano le immagini della nostra Roots. Alessandro, io ti ringrazio e spero di risentirci presto. Volentierissimo. Buona fortuna per l'uscita di questo nuovo album a tutti i Corobu. Bene, grazie mille, grazie Adele, ciao a tutti.